Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Oggi faremo anche un giro dell'Italia per capire se la tendenza cocktail cibo veramente è un trend che sta emergendo un po' ovunque. Faremo un po' un giro per l'Italia. Diciamo che negli ultimi due anni il discorso sui cocktail è cresciuto notevolissimamente anche in questo paese. Magari ci sono esempi molto più importanti in Spagna, ma anche in Inghilterra, ma l'Italia si sta difendendo e come su questo argomento. E allora chi volesse intervenire su cocktail e cibo e sui cocktail, ecco qua, 800 24 0024 oppure sms 349 238 6666. Bene, cominciamo questo giro da un personaggio che a Milano è molto conosciuto. E si chiama Maida Mercuri ed è diciamo la patronessa del Pont de Fer, ma ultimamente anche di un locale che si chiama Rebelò. Però per entrare in clima, prima di parlare con lei, diamola via un po' di musica. Ci sono tantissime canzoni che parlano di cocktail, ne sentiremo abbastanza. Buongiorno a Maida Mercuri. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, allora io, Maida, tu hai un locale importante, stellato, poi un anno fa hai deciso di fare a fianco un nuovo locale che c'ha cocktail e c'ha anche cibo, c'ha dei piatti, non è che ha degli stuzzichini, è un superamento del happy hour, diciamoci la verità, finalmente, dico io, e tra l'altro con un cuoco brasiliano bravissimo che fa appunto, che prepara queste cose. Ecco, è una tendenza questa di abbinare il cocktail a dei piatti oppure c'era già ed ora è stata riscoperta? Ma guarda Davide, sicuramente in questo momento una tendenza. Io sono stata spesso, perché i miei ragazzi sono tutti di origine di matrice spagnola, sono stata spesso in Spagna, per cui mi incuriosiva questa cosa di poter mangiare una cosa di grande qualità e non una cosa un po' buttata lì per giustificare magari da accompagnare un cocktail e berci sopra un cocktail. Io quando apro i locali mi metto sempre dalla parte del consumatore, mi chiedo cosa vorrei trovare una sera che non so cosa fare, non so dove andare, sai quelle sere un po' milanesi, no, dove non hai così le idee chiare, grigie. Sì, che vai in un posto, lo guardi un po', no, questo qua no, tu vivendo a Milano, standoci molto, sai che ci sono queste serate. Allora io come consumatore mi sono detta, voglio un posto dove andare a bere un aperitivo, e se poi ho voglia di fermarmi e rimanere a mangiare qualcosa, voglio qualcosa che mi incuriosisca, perché una pasta, una carne, un ristorante stellato un pochino più impegnativo me lo scelgo prima, secondo me, no? Sì, mi sembra anche giusto questo, infatti è come passare la serata. Cari radioascoltatori, è così, io vi rilancio, 800 24 0024, sms 349 238 6666. Ecco, ti voglio chiedere, che tu sei anche esperta su questo, quali sono diciamo i cocktail che più si possono abbinare tranquillamente a dei piatti? Ma guarda, noi abbiamo due serie di cocktail, uno che sono quelli i tradizionali, per chi non vuol rischiare, cioè, ci sono tante persone che l'idea della novità li spaventa un po', no? Poi per esempio, non so, noi che abbiamo una cucina particolare, per esempio abbiamo in questo momento una tartare di vitello con la guilla formicata di cabras e questo salsina di carrots, no? Chiaramente che cosa gli abbini? Gli abbini un cocktail o un carrots o un vino leggermente ossidato, no? O se no gli abbini questo cocktail che si chiama Vanessa Oxida, che è fatta di vodka Vanessa, vermouth secco di Carpano e questo sherry fino Tio Pepe, per cui gli abbina un cocktail che è studiato con dei profumi ossidativi che ti vanno ad accompagnare l'anguilla di cabras. I cocktail questi ce li ha studiati Oscar Quagliarini, che tu sai che è un matto ma assolutamente geniale in quello che è che sono le bevande miscelate, no? Per cui cerchiamo per ogni cibo, no, di poter abbinare un cocktail, o per ogni tre cibi, no? Bene, grazie, grazie a Maida Mercuri, Rebelotte, Pondefera, Milano. Ora andiamo a Roma, andiamo da un altro personaggio importante a Roma, che è Massimo D'Addezio. Perché è importante? Perché prima era un, diciamo, un barman molto famoso di un albergo, il De Russy, poi ora ha messo, diciamo, ha realizzato, credo, un suo sogno di aprire un suo locale che si chiama Coso, che vuol dire Cocktail Social. Ma a Massimo D'Addezio voglio chiedere questo: lui è stato appunto un barman famoso di un hotel, oggi c'è questa trasformazione. Un tempo i barman d'albergo erano anche dei veri confessori, durante la notte magari i clienti abituali si confessavano e passavano ore e ore davanti al bancone. Oggi c'è questo cambiamento di tanti locali. D'Addezio, cosa è cambiato? Buongiorno a tutti. Guarda, siccome appunto stava cambiando la deriva, con Valerio, il mio socio, abbiamo deciso appunto di ricreare uno spazio dedicato a chi voleva vivere il bar in questa maniera, quindi venire in un bancone, trovare il barman confessore, un ambiente intimo, venire a passare una serata, appunto come diceva chi mi ha preceduto, quando ci sono quelle serate un po' così, perché pure a Roma succede, un po' meno a Roma, diciamoci la verità. Quindi anche qui ti va quella sera di non tornare a casa eventualmente, di prenderti un aperitivo. Anch'io d'accordo con, salutiamo tutti quanti la pericena e sì, le grandi abbuffate, però diciamo che ancora ci si diverte dietro, ancora c'è possibilità di divertirsi dietro il bancone, perché i clienti sono tanti, è aumentata la cultura del bere cocktail, sta aumentando, e tant'è vero ci stiamo spostando anche verso una divertentissima nuova isola, che è quella dell'abbinamento col cibo, perché a volte si preferisce entrare in un bar, prendersi un aperitivo e non alzarsi più, rimanere dentro al bar e mangiare qualcosa in abbinamento proprio con lo stesso cocktail che hai usato per l'aperitivo, ma a mo' di cena. Ecco. Quindi diciamo che è anche una forma di risparmio, diciamo così. Senta, sì, Massimo. Diciamo così, senza nulla togliere ai grandi chef stellati o alle trattorie o alla pizzeria stessa. Diciamo che oggi, a parte il fatto che poi uno sceglie, no, se passare la serata in pizzeria, in trattoria o da uno stellato e fare un'esperienza, però è proprio una questione di aver preso confidenza con l'ambiente bar. Quindi se io entro nel bar, sono a casa, perché ci sono determinate caratteristiche dentro al locale che mi fanno sentire a casa: la luce, la temperatura, l'accoglienza, la benedetta accoglienza. Io decido di rimanere dentro al locale, mangiando, risparmiando, e però continuando anche a fare un'esperienza, certo, differente rispetto a quello a cui siamo abituati. Ma sentiamo Marco dalla provincia di Cuneo, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, noi abbiamo una pizzeria dell'associazione Verace Pizza Napoletana a Bra, Gennaro Esposito. Sì. E da qualche mese, collaborando con Slow Food, stiamo proponendo, in effetti, tutti gli abbinamenti di cocktail. Abbiamo appunto dei barman dedicati per abbinare la pizza, Verace Pizza Napoletana, ai cocktail, ai cocktail classici, ai long drink, ai mojito, ai rum cooler, ai negroni. E abbiamo notato che molti stranieri lo apprezzano. Lo apprezzano, gli italiani lo stanno apprezzando e sta diventando proprio uso comune di passeggiare o fare un aperitivo con i fritti napoletani, per dire, con tutti i nostri cocktail. Bene, Marco, grazie. Io avevo accennato, mentre stavo dando la linea a lei, al discorso della pizzeria, che mi sembra una novità. Comunque, grazie del suo intervento. Ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666. Io voglio tornare a Massimo D'Addezio, appunto, romano, oggi al co.so, che vorrebbe dire cocktail e social. Anche questo è molto divertente. Massimo, io le voglio chiedere questo: lei fa un cocktail che si chiama Carbonara Sour, è un po', come posso dire, un mix tra il cibo e il, appunto, è il cocktail di cui stiamo parlando? Beh, certo, lì siamo andati siamo andati appunto un po' a toccare quello che è la cosa sacra per noi italiani, cioè abbiamo fuso insieme questa voglia di mangiare, no? E poi quando si viene a Roma sempre la carbonara, questa voglia di mangiare e questa voglia di bere. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente, attraverso una tecnica che poi fu inventata nel 2007 circa al PDT di New York da un barman, si chiama Don Lee, praticamente facciamo riposare il guanciale a temperatura, e la temperatura crea questo umore del guanciale, che viene messo nella vodka, quindi la infondiamo. Una volta fatta riposare per alcuni giorni sotto zero, viene filtrata, si ottiene una vodka che acquisisce sapidità e carnosità. Parliamo sempre poi di una lavorazione che ci permette, almeno per quanto ci riguarda qui da noi, ti permette insomma di godere di sempre insomma di aromi estremamente delicati. Certo. Non ci aspettiamo una carbonara. Beh, chiaro, beh, chiaro. Comunque è divertente questo mix. La ringrazio, Massimo D'Addezio di Roma, grazie. Maurizio dalla provincia di Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Maurizio. Senta, io chiamo dalla provincia di Roma, Oleano. Sì. Romano. Sì. È un paese di 7.000 abitanti dove da molto tempo si produce un vino che è il cesanese. Sì, certo, lo conosciamo bene. Lo conoscete? Certo che lo conosco. No, volevo testimoniare, diciamo, che sabato passato si è svolta a Oleano Romano una manifestazione con l'esposizione di aziende sia locali che anche laziali e extra fuori della provincia della regione Lazio. Un incontro con l'esposizione di questa azienda di vari vini, e sì, praticamente si acquistava un biglietto di 10 euro, si faceva il giro degli stand, si mangiava e si beveva. Beh. Quindi è un binomio che... Ma non ho capito, quindi cocktail non c'erano o c'erano anche i cocktail? Mi faccia capire. No, c'erano anche i cocktail. Ah, ecco, bene. A base di vino. Ah, base di vino, perfetto, bene, anche sì. Questa sicuramente è una tendenza importante. Grazie Maurizio, sì, di Olemano Romano, grazie. Buon lavoro. Bene, io ora andiamo a Bologna da Daniele Dalla Pola, che è titolare del New Lounge di Bologna. Buongiorno Daniele. Buongiorno Paulini, come andiamo? Bene, lei come va con gli accostamenti havaiani? Sì, ci proviamo. Sì. In realtà condivido quello che l'ascoltatore, non questo, quello precedente, prima di Massimo. Sì. Che in effetti a Milano era già così, giustamente l'aperitivo. Io ho fatto la mia esperienza in America per tantissimi anni, e grazie, gli americani già bevevano cocktail e cibo. Mangiavano tranquillamente quello che volevano, non c'era un vero e proprio abbinamento, erano un po' più confusi, diciamo. Ora, grazie all'innovazione del bar, la gente è più preparata, i bartender sono molto preparati, studiano e si cerca appunto di fare il lavoro che stanno facendo i vari colleghi a Milano, a Roma, a Firenze. Sì, diciamo che è diventato un settore molto importante, seguito e anche studiato, forse che un tempo era lasciato forse all'inventiva. Ma rimanga con noi Daniele, perché ora sentiamo il radioascoltatore Aldo dalla provincia di Padova. Buongiorno Aldo. Buongiorno Davide, io sono Aldo, titolare del ristorante Letizia del 2 Carrare. Ascolta, io ti seguo sempre nelle tue trasmissioni, però questa volta, permettimi, non sono d'accordo su quanto detto. Bene. E ti spiego perché. Io ho un amico, tra gli altri, che è un barman famoso ad Abano, noi siamo vicini ad Abano Terme, Gianni del Trieste Vittoria. Lui fa dei cocktail straordinari, è un barman conosciuto, però non si segnerebbe mai di abbinare i suoi cocktail a un piatto, perché cerchiamo, c'è il rischio di fare confusione. Come fai, non so, a prendere delle ostriche, stanno a prendere delle ostriche straordinarie, ad abbinare un Campari shakerato? Cioè, io credo che si fa confusione. Bene. Perché i piatti, come quelli menzionati prima dalla prima radio ascoltatrice, che è il ristorante, l'anguilla di Cabras, mescolarlo con un cocktail a base di io penso che un vino straordinario, che in Sardegna ce ne sono tanti, cioè abbinare dei buoni vini e dei buoni piatti, i cocktail sono un'altra cosa. Ci sono dei bar straordinari, dei bar ma straordinari, che fanno il loro lavoro e non abbinano, non so, un piatto di spaghetti alle vongole a un Negroni o a un Martini. Aldo, devo dire che ognuno può intervenire e dire la sua e anche in disaccordo, anzi mi piace anche questo, però ti posso dire che in questi locali non è che ti obbligano, ti danno una lista di cocktail, si mangia e puoi bere anche vino, quindi secondo me. Ma voglio sentire Gerardo Callipo, Saloon di Firenze. Buongiorno Gerardo. Pronto, buongiorno Davide. Lei cosa ne pensa di questo intervento di questo ristoratore che dice no, lasciamo i cocktail da una parte e il cibo dall'altra? Allora, non sono totalmente d'accordo con quello che diceva il collega nell'intervento precedente. Secondo me, ora come ora, allora noi ci troviamo nella patria del vino, appunto l'Italia, quindi il pubblico italiano è sempre stato un po' più restio ad abbinare, come diceva Daniele Della Pola, rispetto agli americani che sono un po' più abituati rispetto a noi ad abbinare il cibo con i cocktail. Noi da buoni italiani, quindi amanti del vino, siamo sempre stati un po' più restii ad abbinare il cibo con dei cocktail, però la tendenza moderna è proprio quella dell'abbinamento con i cocktail. C'è anche questa nuova idea, che è quella del food pairing. L'abbinamento con il cibo, con il drink, ormai è diventato all'ordine del giorno e nei miglior bar e ristoranti d'Italia ormai questi abbinamenti sono all'ordine del giorno. Speriamo però che si superi un po' l'idea dell'happy hour, di quelle abbuffate con del cibo recuperato, del cibo che io direi non si sa bene cosa c'è dentro. Insomma, superiamola. Se uno vuol mangiarsi un piatto, poi se vuol bere prima o dopo un cocktail o durante, bene lo faccia, però superiamo certi momenti che veramente c'era stato, come posso dire, un passo indietro un po' sul mangiare in giro nei bar un po' ovunque, e quindi credo che questo sia importante. Ma io, Aldo della provincia di Padova, voglio chiedere: chi è d'accordo con Aldo può intervenire liberamente, lo ripeto, 800 24 00 24 o scriva 349 238 6666. Sono d'accordo con Aldo di Padova. Ma torniamo a Daniele Dalla Pola. Senta Daniele, forse è molto più facile abbinare i cocktail con dei cibi, diciamo, esotici. Sì, diciamo di sì, è molto più facile, è molto più semplice far capire alle persone che non per forza, come diceva prima la signora, noi non vogliamo fargli, non so, un mai tai a Milano con le spaghetti alle vongole, cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Potrebbe andare benissimo, come se almeno sono delle ali di pollo piccanti, ecco, per dire chicken wings. Queste cose potrebbe, poi dipende dal palato della persona, perché non siamo tutti uguali, per cui dobbiamo, certo, conoscere il cliente, capire cosa vuole. A me piace tantissimo, ho avuto un'esperienza tanti anni fa in America con una catena di ristoranti famosa che hanno inventato loro l'abbinamento tra drink brasiliani di genere di tendenze brasiliane con cibo giapponese. Beh sì, diciamo che c'è molta mescolamento tra Brasile e Giappone a tavola, poi anche dal punto di vista, diciamo, delle razze, quindi mi sembra un'idea giusta. Voglio chiedere a Gerardo Callipo di Firenze, io so che nel suo locale lei addirittura fa delle serate cibo vegano o per intolleranti di glutine con cocktail, è così? Assolutamente sì. La percentuale di persone che soffrono di celiachia oppure di persone che sposano il vegetarianesimo diventa sempre più alta. Addirittura dicono che l'Italia sia il secondo paese al mondo con la maggior percentuale di vegetariani dopo l'India. Quindi un'attenzione nei confronti di questa tipologia di interesse è praticamente d'obbligo ormai, quindi sono delle serate, degli eventi che hanno sempre più maggior riscontro e successo. Senta, i cocktail sono a base frutta oppure sono anche alcolici? Sono anche alcolici. Sì, e si abbinano bene, diciamo, le verdure, appunto, e tutto quello che non è carne, non è pesce d'altro, non è formaggio, con i cocktail? Noi addirittura nel nostro locale sposiamo un po' questa filosofia che tutto ciò che si può mangiare si può anche bere, e quindi non è assolutamente strano trovare nei nostri drink centrifuga di verdura, cocktail che ne so a base di centrifuga di sedano abbinato al cioccolato, oppure verdure cocktail a base di rucola, abbinato al parmigiano e così via. If you like pina coladas, devo dire che non è proprio la musica brasiliana, ma la pigna colada è sicuramente, sicuramente brasiliana. E Roberto da Bologna, un radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide, buongiorno. Prego. Io sono non un barman, sono un appassionato di cocktail, oltre ad essere un giornalista. Mi sono dedicato al cocktail Martini. Ritengo che sia uno dei cocktail più difficili da fare, difficilmente lo trovo buono in giro per il mondo. Ho fondato un'associazione Ave Martini e con il Martini io abbino molto le ostriche, questo come essenza. Bene. Poi ritengo, prego. Scusa. Prego, prego. No, poi ritengo che nella cultura inglese, avendo frequentato molto questo paese, tantissime persone bevono cocktail Martini e poi prendono la coppa, se la portano al tavolo e proseguono il pranzo con un buon cocktail Martini. Bene, grazie Roberto. Devo dire che c'è un radioascoltatore che dice giustamente, beh, insomma, col vino sicuramente il modo di mangiare diventa più economico che con un cocktail. Ma io voglio chiedere a Guglielmo Miriello, che è l'uomo dei cocktail di Dry a Milano, che è una pizzeria nata come pizzeria, ma diciamo che si sta sempre più sviluppando appunto questo abbinamento. Guglielmo, ma questo abbinamento di questo Roberto da Bologna ti aggrada? Buongiorno Davide. Allora, ecco, diciamo che la realtà del Dry, appunto, come un po' hai anticipato, è una realtà nata appunto dove c'era il desiderio di creare un cocktail bar e una pizzeria dove il cliente, l'avventore del bar, potesse bere un cocktail e magari accompagnando il tutto con una pizza, una focaccia. Ecco, io per il discorso, legandomi anche al radioascoltatore che diceva appunto degli abbinamenti, ecco, sicuramente magari la cultura del cocktail non è tipicamente italiana e non ci appartiene, quindi è vero, abbiamo una cultura più radicata verso il vino, però devo dire che ultimamente, in quest'ultimo decennio, devo dire che c'è stata un'evoluzione e una crescita anche diciamo dell'avventura del bar, certo. Divenendo più consapevole anche, no, di quello che si beveva, stava bevendo, di quello, certo, che beve, perché appunto c'è più curiosità, più consapevolezza, poi è nata proprio un trend in questi ultimi anni, che è quella anche della riportare in auge vecchi grandi classici del passato. Ci sono diverse tendenze dove molti barman con esperienza hanno creato un po' il loro stile, quindi reinterpretando i grandi classici, creandone di nuove ricette, insomma è in grandissima, certo, c'è molto interesse, soprattutto per i clienti. Ecco, rimani con noi che poi ti chiederò delle cose appunto sulla pizza. Franco da Roma, radioascoltatore, buongiorno Franco. Sì, ciao Davide, sono Franco da Como, sì. Comunque sono Franco di Kiss and Food, ci conosciamo. Ascolta, io, vabbè, a parte preferenze personali, preferisco il vino abbinato al cibo, ma viaggiando all'estero, o adesso puoi anche trovare a Milano, ci sono dei simpaticissimi locali con sushi in versione brasiliana, che non è una moda, ma è qualcosa di storico, vista la presenza di giapponesi in Brasile, che abbinano appunto i sushi con cocktail della tradizione brasiliana, come la caipirinha. Ed è... Bene, sì, vedo... Abbinano anche... Ho diversi sms che mi parlano appunto del discorso del sushi abbinato, appunto. Dimmi, chiudi pure, Franco. E poi, vabbè, non ricordiamoci che comunque in cucina è importante che l'abbinamento abbia senso tra cibo e quello che si beve. Certo. Noi in Lombardia abbiniamo la cassella con la grappa, quindi diciamo, ecco, che osare in cucina non si sbaglia mai. Ecco, a proposito di grappa, devo dire che mi è capitato di bere, proprio che mi è stato offerto domenica, il Nonino Tonic. E ho voluto capire un po' di che cos'era. Bene, è un po' una riedizione che al posto del gin va appunto la grappa, una grappa a 43 gradi della grappa, appunto grappa Nonino. Ma non solo, sempre Nonino, so che il mojito, ad esempio, ormai si fa in diverse parti anche del mondo con l'amaro Nonino. Quindi devo dire che appunto questa, questo new trend appunto molto importante dei cocktail in Italia può anche portare beneficio all'industria della grappa, e la Nonino apre sempre una delle strade completamente nuove, perché appunto può anche funzionare in questa maniera. Ma io ora voglio andare a Bari. Voglio andare a Bari da Vincenzo Mazzilli dello Spichisi. Perché? Perché Mazzilli fa proprio degli accostamenti con prodotti del territorio, quindi piatti del territorio con cocktail. È così, Vincenzo? Salve, salve dottor Paolini, la ringrazio innanzitutto per l'opportunità che ci regala. Insomma, non è molto facile avere il focus di un locale di Bari, è sempre un po' difficile. Quindi la no, io amo molto il sud, io non lo dimentico mai, Vincenzo, il sud. No, è sempre molto difficile. Comunque, veniamo a noi. Allora, noi con il mio socio, con Nicola, il mio socio, abbiamo pensato di avere l'obbligo anche un po' morale di abbinare i drink della tradizione classica o dei nuovi drink di nuova costruzione con i nostri prodotti del territorio, quindi frutta e verdura del territorio. Sposo appieno il concetto del mio collega di Firenze, che mi pare che sì, parlava di drink con cinzifu eccetera, che sono facilmente abbinabili, visto certo, che è questo l'argomento. Noi non abbiamo cucina, però abbiamo sviluppato un progetto con un ristorante che si chiama qui di Bari, posso fare il nome? Certo, certo, certo. Che si chiama La Bull, un ristorante di uno chef bravissimo che si chiama Antonio Scalera, ha lavorato in Grotta Pratese, quindi in grosse strutture qui al sud, un progetto di abbinamento prodotti del territorio in cucina e prodotti del territorio in bicchiere. È un abbinamento che è un progetto che ovviamente, viste le poche risorse, i pochi avventori ancora su questo argomento, insomma, è stato un pochino circoscritto agli amici. Beh, però comunque si lancia la pietra nel certo, lago, e si vede di fare quante più righe possibile, insomma. Ci vuole sempre chi apre la strada, Mazzilli, sì. E quindi probabilmente fra poco magari apriranno altri locali, si ricorderanno che è stato lei uno dei primi a lanciare il sasso in piccionaia. Vengo da una cultura contadina, quindi chi fa l'aratro, chi fa il solco, ragazzi, sempre dietro. Francesco da Ferrara, un radioascoltatore, buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, salve, volevo solo portare la mia esperienza riguardo a cocktail e cibo che ho avuto in Spagna, sia a Barcellona che anche a Granada, per esempio, dove tradizionalmente si beve la coppa a Barcellona di cava, però si abbina anche con degli eccellenti gin tonic, quindi, e dei prodotti di eccellenza, le loro tapas. Più volte sono stato in locali dove, a parte mangiare prosciutto, diciamo, alla famosa Amon Iberico, anche, diciamo, quindi prodotti come delle acciughe del Cantabrico, peperoni di Galizia, loro sono molto specializzati in questo tocco, certo, con le tapas abbinato anche al cocktail. Sono stati dei maestri su questo, molto più che nel resto della cucina. Questa è una mia battuta un po' polemica. E io voglio tornare a Miriello, perché voglio chiedere: pizza e cocktail, funziona, Guglielmo? Sì, devo dire che funziona molto bene il fatto di aver coniugato un cibo come la pizza o la focaccia al cocktail. Funziona molto bene perché, come dicevo, non c'è proprio una regola nell'abbinare un cocktail. Ovviamente cerchiamo, con la nostra esperienza, di poter suggerire, no, quello che possa essere il cocktail da accompagnamento alla pizza o alla focaccia. Poi, ovviamente, requisiti che devono rispecchiare, certo, un po' i gusti del cliente, no? Perché ovviamente quando si propone un cocktail lo si fa raccogliendo un po' di informazioni che rispecchia un po' il gusto del cliente. Poi ovviamente devo dire che la focaccia o la pizza, secondo me, sono un ottimo accompagnamento per il cocktail. Bene. Abbiamo sentito che anche a Bra c'è una pizzeria che hanno lanciato questo abbinamento. Sentiamo Beatrice dalla provincia da Roma, anzi. Buongiorno Beatrice. Buongiorno, volevo semplicemente testimoniare la mia esperienza fatta una decina di anni fa a Reggio Calabria, In un bar ho assaggiato un cocktail principalmente di frutta, leggermente alcolico, e servito con gamberetti e alici fritte. Bene, l'ha apprezzato? Sì, moltissimo. Benissimo. Allora, abbiamo con noi Filippo Sisti, Camilla e Carlo alla segheria a Milano. Carlo sta per Carlo Cracco e Camilla sta per la sua signora. E allora voglio chiedere a Filippo. Filippo, so che c'è grande, come posso dire, grande integrazione tra la cucina e i cocktail che lei prepara. Ci parla un po' di questa sua, se vogliamo, come posso dire, tendenza. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, anche i colleghi in linea. Sì, praticamente qui da Carlo e Camilla facciamo una miscelazione un attimino un po' più particolare, diciamo una piccola evoluzione al classico food pairing, quindi all'abbinamento, che io spero che non si faccia tanto confusione nel appunto in questo discorso qui di abbinamento, perché diciamo che noi professionisti non è che abbiniamo il cocktail a quello che è l'happy hour, cioè quindi a quello per che carità, l'ho già detto molte volte, cioè nel senso c'è dietro uno studio molto profondo, cioè come può esserci per un sommelier, cioè sì, sicuramente dietro per un barman come noi qui da Carlo e Camilla, cioè comunque c'è uno stretto contatto sia con lo chef Cracco che con i suoi collaboratori come Sacchi e Pollini, cioè comunque c'è uno studio, cioè sono ore perse ad assaggiare dei piatti che magari possono andare bene come no, come cocktail che possono andare bene o no. Ricordiamoci il perfetto servizio del caviale, no? Comunque, cioè, il caviale sono decenni che viene servito con vodka, un classico vodka martini è vodka pura, quindi cioè, già si parla di anni e anni fa di questi abbinamenti, no? Poi dipende, se tipo noi facciamo anche una miscelazione diversa, cioè prendiamo quelle che sono le tecniche di cucina, le mettiamo in tecnica di miscelazione, cioè andiamo a utilizzare cotture sottovuoto delle marinature che vanno a riprendere quello che è il piatto. C'è un bello studio dietro, cioè non è proprio. No, ma bisogna ricordare anche, mi sembra che un anno fa, due anni fa, feci una trasmissione dove intervenne un noto barman milanese che segue le tendenze molecolari, della cucina molecolare, appunto nella miscelazione. Quindi sicuramente ci sono degli studi, oggi non è più, diventano cocktail che hanno bisogno anche di una lunga preparazione e non sono più così fatti all'ultimo momento mescolando due o tre liquori, ma ce n'è un ottimo abbinamento che mi arriva da Verona e devo dire, lo devo raccontare perché è troppo divertente e io apprezzo questo. Un ottimo abbinamento è pane soppressa, tre quarti di succo di pomodoro e un quarto di vodka. Claudio da Verona, grazie Claudio. Ma ora torniamo a Roma, andiamo al Banana Republic da Paolo Sanna. Buongiorno Sanna. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie a tutti. Il suo è un locale che fa appunto cocktail e serve anche cibo. Sì, soprattutto, devo dire la verità, mi trovo d'accordo, intanto saluto i miei colleghi che hanno detto tutti una cosa molto giusta. Mi trovo d'accordo con la persona che ha detto che è meno dispendioso bere una bottiglia di vino, però purtroppo secondo me l'abbinamento è sempre una cosa molto settoriale. Diciamo che un abbinamento è un abbinamento, non si può mangiare un piatto e continuare con lo stesso vino, non si può mangiare fare un abbinamento oppure mangiare tutta la cena con un solo drink. Noi facciamo abbinamenti e per ogni abbinamento c'è un drink, per ogni piatto c'è un bicchiere di vino particolare che si abbina a tutto questo. Giustissimo che è un pochino dispendioso, però si possono fare degli abbinamenti e metterli ad un prezzo modico e far continuare una cena a degustazione. Ad esempio, noi possiamo fare col foie gras un abbinamento molto semplice con un liquore di prugna italiano e un gin particolare, e sta molto bene. Ovviamente c'è molto studio dietro, ci sono gli chef del locale, ci mettiamo lì, studiamo come fare questi abbinamenti e poi ci vengono in mente, si provano, se stanno bene bene, se no no. Lei ha perfettamente ragione che non bisogna fare molta confusione, ed è vero, cioè un cocktail, non so, un cocktail diciamo abbinato, quanto costa, Sanna? Allora, noi abbiamo fatto, ad esempio, nel nuovo menu che proponiamo al Banana Republic ci sono delle tartare molto particolari. Quindi una tartare, per dire, servita con un po' di tartufo, si può bere tranquillamente con un old fashioned. Un old fashioned classico, sì. Addirittura lo possiamo anche aromatizzare al tartufo. Allora, questo abbinamento, comunque un piatto dove tu hai una buona tartare, dove viene servita con dei crostini particolari di pane, dove hai una julienne di verdure ripassata in padella, quindi hai un piatto completo dove puoi mangiare, lo abbiniamo con questo old fashioned e ti costa 19 euro. Bene, rimanga con noi, sentiamo un radioascoltatore, Luca da Milano. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Mi dica. Io volevo portare una testimonianza, come dire, professionale, perché il mio mestiere è fare ricerche di mercato. Sì. E quello che posso dire è che il superamento del binomio aperitivo con patatine, olive e altre cose molto banali, e dall'altra parte l'happy hour dove dilagano cibi di tutte le origini, di tutte le specie, e l'unica vantaggio è semplicemente di abbuffarsi a poco prezzo, è stato superato nei tempi recenti, nel senso che l'aperitivo in Italia innanzitutto si è nazionalizzato, il rito dell'aperitivo, cioè non è più solo milanese e nemmeno nordico, ormai fa parte di tutta la penisola, e nello stesso tempo si è nobilitato, perché i cocktail hanno riscosso particolare successo, sono diventati anche più facili da bere con il boom dello spritz, e comunque stanno riscuotendo un interesse crescente. La nuova formula dell'aperitivo è di abbinare all'aperitivo, sto parlando non della tendenza di cui state discutendo in trasmissione, ma con dei cibi più sofisticati, che potevano essere dei salumi particolari, dei formaggi particolari. Quindi credo che questo trend sia il frutto proprio di una nobilitazione e di un crescente protagonismo dell'aperitivo tra i modi di bere degli italiani. Bene. Secondo punto, sì, che volevo portare, e poi ho chiuso, avete parlato di tapas, avete parlato di questa tradizione spagnola, in realtà ce n'è un'altra molto più interessante, che a mio modo di vedere potrebbe essere ancora più interessante da sfruttare in questa logica dell'aperitivo, che sono i pinchos, che è una mini cucina fatta nei Paesi Baschi, molto più sofisticata dei tapas, è proprio una scuola, fanno corsi di cucina per fare questi piccoli cibi in miniatura, ma molto molto curati e molto sofisticati. Peccato che a San Sebastian e dintorni alla fine bevano solo o la birra o il cava. Bene, grazie. In un'ottica di abbinamento potrebbe essere una cosa interessante. Grazie Luca, ma ho capito dalla voce, questo signore è un grandissimo ricercatore di mercato e di tendenze alimentari, e quindi credo che abbia detto un po' anche quello che è frutto delle sue ricerche. Voglio tornare a Filippo. Filippo, velocissimamente, un cocktail appunto nato dalla combinazione con la cucina. Ma dunque, adesso con cui stiamo lavorando veramente bene si chiama Gonzales Bias, che è questo drink che è preso ispirazione da la classica cottura a cartoccio. Quindi prendiamo un pezzettino di mango, lo scegliamo già un po' acerbo, quindi un po' duro, lo andiamo a condire con delle bacche di ginepro, delle foglie di limone fresche, pepe, un olio infuso al cardamomo e del tio pepe, appunto questo sherry qui da quale prende il nome il drink. Cuociamo a cartoccio per mezz'ora, 220-230 gradi. Una volta tolto aggiungiamo dell'achillea, che è un liquore alla camomilla di montagna, del tio pepe ancora, del mescal distillato d'agave, del succo d'arancio, chiudiamo tutto questo bicchiere in un cartoccio in alluminio con una affumicatura al caffè ginepro. Diciamo, questi qui sono alcuni dei drink che si possono andare ad abbinare. Quindi abbiamo una parte all'affante, quindi grazie. Ti devo interrompere perché la trasmissione è giunta al termine. Grazie comunque Filippo, grazie a Paolo Sanna. Bene, però comunque un cocktail ne hai parlato. Bene, io ringrazio in redazione Anita Panizza, Nicolò Rossoni e in regia il grande milanista Peter Bescapè. Alla prossima settimana, un caro saluto da Davide Paolini.